Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Benvenuti e buongiorno. Siamo di nuovo insieme in questo sabato per parlare di noi e dei nostri figli. Oggi un tema che penso coinvolga tutti noi, grandi e piccoli. Parliamo di bugie grandi, di bugie piccole, bugie con le gambe corte, con il naso lungo. Insieme a me, sicuramente ne avrà dette anche lui quando era piccolo e non solo, Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Voglio ringraziare Filippo Aureggi in regia alla parte tecnica, Luigi Borghi in assistenza in redazione. Alberto, una bugia che ti ricordi quando era piccolo, di quando eri piccolo, per cui hai preso una bella sgridata o un castigo? Così all'improvviso? Sì. Credo probabilmente un'uscita da casa non concordata, per cui mi aspettavano e io non tornavo, per cui sono quella anni? Sera sono andato a letto senza cena, credo 11 anni. 11 anni. Se volete raccontarci le bugie che avete raccontato da piccoli, da ragazzi, o quelle che avete scoperto, vi raccontano i vostri figli, 824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Salutiamo l'ospite che è in linea con noi, la dottoressa Manuela Trinci, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dottoressa Trinci, bugie? Beh, ce l'ho nel DNA, sono toscana, tra Pinocchio e Giambattista. Come potrei non mentire? Magnifico. Allora, adesso noi andiamo a sentire la nostra solita lettera di pensieri di padre che ci dà un po' lo spunto e poi lo commentiamo insieme. Intanto chiamateci, scriveteci anche al 349-238-6666. Bugie piccole, bugie grandi, bugie che sono state clamorosamente scoperte e invece che hanno avuta fortunata e quindi sono riuscite a rimanere intoccate. Lettera e poi siamo insieme. Mio figlio Luca ne ha combinata una davvero grossa e tra l'altro da lui non ce la saremmo mai aspettata. Sempre regolare, cioè rispettoso delle regole, ha invece detto un mare di bugie per proteggere un suo compagno di classe che nel cortile della scuola ha rubato alcuni pezzi di un motorino per rivenderli su un sito di aste online. Il fatto è che il furto, a loro insaputa, è stato ripreso da una webcam che ha mostrato che l'amico rubava e lui era lì che assisteva. Nessuno sapeva di questa videoregistrazione e per alcuni giorni il preside ha convocato in più occasioni mio figlio in presidenza. Siamo stati chiamati anche noi genitori che, sollecitati dal preside, lo abbiamo più volte messo alle strette. Ma lui ha sempre negato. È crollato soltanto quando il preside gli ha fatto vedere la videoregistrazione e gli ha annunciato la sospensione. Ne abbiamo parlato a lungo in casa. Tra le lacrime raccontava di essersi sentito in dovere di proteggere l'amico, anche se lui non avrebbe mai rubato nulla a nessuno. Rivelare la verità sarebbe stato per lui come un tradimento imperdonabile. Siamo in crisi come genitori e non sappiamo se e come ridare fiducia a nostro figlio, che tra l'altro per questo fatto si è pure preso anche un 5 in condotta. Lui, che per tutte le medie e i primi 2 anni delle superiori ha addirittura avuto sempre 10. Un papà sconcertato. Oi là là, Alberto! Questo è... lo dovremmo chiamare un casone, cioè un grosso caso e non riduciamolo, esatto. No. Dottoressa Trinci, cosa devo dire di quest'uomo? Vabbè, però... anche Alberto ogni tanto prende delle piccole scivolate. Dottoressa Trinci, qua c'è un problema da cui sono nati poi tanti problemi, perché no, c'è un furtarello, insomma, anche se... Davvero. Ecco. Sì. Mi sembra, no, che su questa lettera la prima cosa che mi viene in mente è che la verità, se la verità e la bugia sono la stessa cosa, per chi dice la bugia e per chi l'ascolta. Ecco, cioè, quale verità è dentro a Luca? C'è la verità, una verità interiore, una verità dei fatti, e poi c'è la verità oggettiva. Sì. Quindi questo è un aspetto. Poi, che senso ha questa bugia per un ragazzino? Un ragazzino però che non è tanto piccolo, mi sembra di capire, perché fa già la terza superiore, sì, probabilmente, quindi siamo sui 17 anni. Ecco, un ragazzino mi ha colpito molto, non ci si sarebbe mai aspettato, perché a un certo punto negli adolescenti, almeno per la mia esperienza di lavoro, spesso le bugie hanno proprio un senso provocatorio. Mm. Che cosa sta succedendo? Ecco, come mai io ricorro e si ricorre in questa situazione a una modalità di comunicazione che diventa proprio la bugia? Per segnalare, per provocare chi e che cosa? Per rompere l'immagine di un ragazzino per bene? Questa potrebbe essere. E noi come facciamo a capirlo? Perché in effetti i ragazzi, no, adesso non i ragazzi, anche i grandi, raccontano. Le bugie, insomma, fanno parte un po' del nostro quotidiano. Ci sono anche fior di indagini che si sono prese la briga di misurare quante bugie dice un adulto, quanto un adolescente. Lasciamolo dire, ciascuno per esperienza personale sa che volenti o nolenti ogni tanto la bugia si dice, a volte serve. Noi come genitori che cosa dobbiamo fare di fronte ad un figlio che prima di bugie non ne raccontava e poi improvvisamente si mette a raccontare bugie talvolta anche inutili, perché se vogliamo quella di Luca aveva una sua motivazione. Dunque, io ho presente un libro molto bello di Daniel Pennac, che è Diario di scuola. Lui è un grande bugiardo in questo, sì, in questo racconto. Ed è molto bello come un professore proprio di scuola gli dà una mano per uscire da questa situazione dove lui le bugie sostanzialmente credo che si dovrebbe sapere perché si dicono. Ecco, per esempio Pennac diceva le bugie perché si sentiva una schiappa, tutto sommato, una nullità. Allora forse se le cose, appunto, dipende anche dall'entità, dalla gravità, ci possono essere bugie legate anche a problematiche proprio di sociali, di microdelinquenza, allora quello è un po' un altro argomento, ma se le bugie sono bugie che rientrano in un ambito di quotidianità, di tra virgolette anche normalità, direi, allora forse una capacità che i genitori possono avere di intuire, di inventare e di uscire noi dal circolo vizioso della bugia, perché se si insiste molto, tu stai mentendo, io sto mentendo, no, ecco, allora probabilmente lì si incista la situazione. Ecco, bisognerebbe essere capaci, non è facile, mi rendo conto, però di trovare una strada più efficace per sgonfiare a poco questo pallone della bugia che minaccia di crescere e di scoppiare addosso a tutti e due, ai genitori e ai figli. Allora, questo è l'obiettivo della puntata di oggi, quindi invito i nostri amici da casa a raccontarci la bugia e insieme ad Alberto Pellai e alla dottoressa Trinci cercheremo di capire perché questa bugia è stata detta, che cosa serviva, che cosa nascondeva e soprattutto come uscire da questo circolo vizioso di cui parlava la dottoressa Trinci, che alla fine non porta lontano. Siamo qui e abbiamo in linea Giuseppe da Roma, parliamo di bugie. 824 0024 ci aiuta la dottoressa Manuela Trinci e come sempre Alberto Pellai. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti? Sì. Anche una bugia, se vuole. No, premetto che concordo con la dottoressa perché anche mia madre è toscana e devo dire che ogni tanto ne spara una di bugie. Comunque... No, volevo testimoniare sul un fatto, una delle esperienze vissute con mio figlio, che adesso ha 17 anni, ma quando si è verificato questo episodio ne aveva due di meno. Una mattina sono andato davanti alla sua scuola per caso, perché lo volevo incontrare, l'ho trovato con una sigaretta in mano e lui mi ha detto, cosa che purtroppo nelle scuole si sa, è molto... Sì. Giuseppe, non lo sento. Se n'è andato, vero Giuseppe? È caduto. Filippa Oreggi mi sta facendo già dei segni che mi fanno capire che, anche se sono un po' dura di comprendonio, che Giuseppe lo richiameremo. E Maddalena invece ci chiama da Milano con grande serenità. Maddalena, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. È una bugia o è la verità? No, è la verità. Ah, ascolti, perché? Apro e chiudo una piccola parentesi. Sì. In essere benessere, come mai non parlate mai della sciatica, che è un male che affligge tanta gente? Va bene, Maddalena, in effetti guardi che ne abbiamo parlato di allora, sciatica. Che io mannaggia, si è persa la puntata, ci torneremo Maddalena. Intanto andiamo di bugie. Sì, ho sentito prima del caso di quel ragazzino che faceva da palo al compagno. Purtroppo ho avuto anch'io un'esperienza dura del genere con mio figlio, che era il classico bravo ragazzo vissuto nella classica famiglia borghese, frequentate le migliori scuole. Sì. Solo che lui, da classico timido, si attaccava sempre ai teppisti. quando andavamo anche in villeggiatura, se c'era una teppa lui era come abbagliato, no? Sì. E me ne ha fatti tanti di quegli scherzi lì. E volevo dire che sono ragazzi da tenere molto molto sotto osservazione, perché mostrano un lato del loro carattere che noi genitori ignoriamo completamente. Grazie, grazie Maddalena. Dottoressa Trinci, Maddalena ci aiuta inquadrando un aspetto che credo sia importante considerare e che abbia sicuramente un ruolo anche nel tema che stiamo affrontando, che è quello delle bugie. Il timido, che tante volte magari non ha, proprio perché non ha una grande personalità come quello che era, ci raccontava Maddalena, si appoggia a teppistelli e allora lì poi è disposto un po' a fare tutto, a raccontare bugie, a trasformarsi. Ma io penso appunto di Maddalena, diciamo, non condivido quando ha detto che bisogna tenerli più sotto controllo. Forse io credo che questi ragazzini, un po' in linea con quello che diceva lei Nicoletta, forse hanno più bisogno di diventare persone, di diventare autonomi, perché la bugia in queste fasce d'età qui ha anche proprio il senso di creare degli spazi propri. Certo. Genitori, e mamma e figlio soprattutto, c'è un legame molto stretto e piano piano nell'adolescenza questo ragazzino o ragazzina cominciano a staccare i fili e a pensare per contro loro e quindi anche a cercarsi una propria identità. L'ascoltatore che prima raccontava del figlio e poi si è interrotto, ma era evidente quello che voleva dire, mi sembra, no? La sigaretta, avrà detto come Pinocchio: io dico sempre la verità, non fumo. Certo. Di fronte all'evidenza. Sì, perché c'è qualcuno che dice negare sempre di fronte. Comunque. Esatto. Non è mia, non è come pensi. Beh, esatto. Quello. Non sono stato io, ecco, quindi queste sono le classiche bugie che i pedagogisti chiamano le bugie di discolpa, ecco. Quindi credo che i ragazzini davvero vadano aiutati a sentirsi sicuri, perché se noi gli diamo un'autonomia che non nasce nell'adolescenza, ovviamente nasce molto prima, allora probabilmente non hanno bisogno di seguire teppistelli, e se dicono le bugie possono dire delle bugie che possono essere anche creative, perché attraverso le bugie si vanno anche a costruire delle cose significative di se stessi, un mondo diverso, no? Purché non diventino rifugio della mente, le bugie io rivendico anche che hanno una funzione creativa. Anch'io sono della sua stessa idea. Volevo leggere un messaggio carino. Ho 28 anni e ancora dico piccole bugie a mia mamma, fin di bene, per farla stare tranquilla. Ma so che se avesse a sapere la verità mi farebbe una bella predica, perché le mamme non finiscono mai, ma le bugie continuano. Alberto, tu stiamo parlando di bugie, stiamo occupandoci di ragazzetti, insomma, adolescenti, ma si insegna ad essere, a non essere bugiardi sin da piccoli. I tuoi figli, che magari avranno anche loro raccontato qualche piccola, certo, bugia. Che ne racconta. Ah, meno male. Prediche, castighi o grandi spiegazioni? Ma in generale direi che non può esserci un bambino senza che lì vicino a lui ci siano anche delle bugie, cioè i bambini devono essere bugiardi, anche perché per loro è molto difficile a volte discriminare bene tra realtà e fantasia, quindi la realtà è come se la raccontano più, sì, che come realmente è. Dopodiché nel momento in cui una bugia è proprio palese, viene detta un po' per spesso i bambini le dicono anche per vedere come reagiscono i genitori, cioè proprio una prova del 9 per vedere se davanti a me ho un papà o una mamma che davvero sanno come gestire le mie bugie, per cui bisogna proprio intuire il pensiero che si nasconde dietro la bugia. Se è una bugia ingenua, per così dire, una bugia proprio detta così, in modo, può essere in modo molto spontaneo, per superficialità ci si può mettere a sorridere e dire guarda che la mamma e il papà ne sanno più di te. Se invece è una bugia che tende proprio a verificare quanto la mamma e il papà fammi un esempio sulla scena educativa, per esempio una bugia del tipo ho messo a posto, noi in questo momento ci sono tutti i giocattoli in cortina, la sera bisogna averli messi a posto tutti, hai messo a posto i giocattoli in cortile perché domani mattina papà deve uscire con la macchina, e la risposta è sì, perché te la voglio fare. È chiaro che una mamma o un papà, se ha la percezione che questa sia una bugia, deve andare a controllare, se scopre che i giocattoli sono ancora tutti alla rinfusa in cortile, mandare giù di corsa il bambino che ha detto la bugia e rimediare al danno che ha fatto. Danno, su. Danno, vabbè. Danno. Alla... Luigi da Milano, buongiorno. È un po' buongiorno, severo questo, buongiorno, Alberto. Buongiorno, buongiorno. Dunque, io sono una un papà ormai attempato, dove ha un'esperienza decisamente, beh, ne ho due con i numeri, poi li lascio aggiungere a voi, malgrado la voce la potrete sentire giovanile. Allora, io sono... Quindi la sua voce inganna. Assolutamente, assolutamente. Se le dico che ho un figlio di 46 anni, appena compiuti, e chiunque non riesce a capire se è il figlio o il papà che bene, questo... Luigi, bene. Ok, allora, detto questo... Detto questo, io sono per le bugie, assolutamente no. Le ragioni sono due o tre, ma gliele dico spicciole. Sì. Allora, la prima, se uno racconta una bugia e poi si abitua a raccontare bugie, ci vuole un elaboratore per tenerle a mente. È vero. Perché poi se le dimentica. Quindi, e questa è una parte. La seconda parte, quando uno impone già da piccolo la sua serietà e dice la verità, la potrà abbellire, la potrà fare come si vuole, ma è pur sempre una verità. Vi dico una cosa che è successa a mia nipote di 17 anni, liceo. Mia nipote gli ho insegnato, perché a suo padre a sua volta dice: io sono contento della rigidità di mio padre. Attenzione, rigidità nel comportamento non vuol dire rigidità sberle, perché io a mio figlio da quando è nato non conosce le mani. Ho detto tutto. Allora, dicevo che a scuola due professori si sono permessi di dire a mia nipote cose fuori posto, dicendo che aveva raccontato una frottola e di non comportarsi in quel modo. Bene, la ragazza è venuta a casa piangendo, perché chiaramente non glielo permettiamo assolutamente di dire bugie. Il papà è andato là dai professori, non davanti alla ragazza, perché non è giusto, perché le osservazioni devono essere i professori. Bene. Si trattava di una cosa abbastanza grave, di cui aveva rotto un tendine della caviglia, e il professore gli ha dato due perché non voleva fare ginnastica. Questo è per dirle. Vabbè, mio figlio è andato dai professori e ha detto: non se lo permette, lei ha in mano la ragazza e quindi di conseguenza cerchi di conoscere la ragazza. Beh, oggi, a distanza di un anno e mezzo circa, il professore si è complimentato con mio figlio per la serietà che porta la ragazza. Vedi. Questo è il comportamento che deve essere. Non ci deve essere lassismo coi genitori, perché sennò i bambini la bugia ne fanno assolutamente un'abitudine. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme, arrivano tanti messaggi con piccole e grandi bugie. Andiamo a Roma perché Giuseppe è tornato, buongiorno. Eccomi, sono di nuovo qui. Eccola. Ero in viaggio. Eravamo rimasti davanti alla scuola, poi magari lei è riuscita a sentire già un po' una lettura della dottoressa Trinci con il figlio con una sigaretta in mano, sì. È giusta, anche perché lì sul momento mi ha... No, Giuseppe, mi dispiace, non riusciamo. Lei sta viaggiando, le auguriamo buon viaggio, ma la sua voce non è possibile, non possiamo mandarla in onda perché è troppo disturbata. Alla prossima. Paola da Torino. Buongiorno. Buongiorno. Paola, lei è ferma, non viaggia. Sono ferma, ma sono in macchina, ma ferma. A Torino. Senta, che ci racconta? Allora, racconto una bugia tremenda che ho raccontato quando avevo circa 8 anni. E premetto che avevo una sorella molto genio, un po' più grande di me, e io un giorno trovai un racconto che mi piacque molto, allora decisi di scriverlo con la mia scrittura e poi lo presentai ai miei genitori dicendo che era farina del mio sacco. E loro sono stati così veramente estasiati da questa bambina prodigio che hanno contattato addirittura un loro amico editore. Volevano pubblicarmi il racconto. A questo punto io credo di essermi impapinata, insomma, entro 2 giorni è saltata fuori la verità ed è stato tremendo, perché ho dovuto telefonare a tutte le amiche della mamma che avevano letto il mio racconto. Sì, poi queste punizioni, devo dire, Paola, che anch'io però devo meno, mia sorella aveva scritto una poesia che io mi ero subito imparata a memoria, parlava di una fragoletta, adesso non la ricordo, se no ve la racconterei, a distanza distanza di qualche tempo la maestra ci aveva detto appunto di scrivere una poesia, e io prontamente ho tirato fuori la poesia di mia sorella e l'ho fatta, ecco. L'ho spacciata per mia, ma insomma vedo che insomma con il racconto lei è andata un pochino più giù dura. Sì, racconto anche di Cavalieri, ricordo qualcosa, io l'ho patito tantissimo per queste telefonate che ho dovuto fare per raccontare a tutti quanto di bambina buttata da posto. Perché, dottoressa Trinci, un tempo le mamme avevano delle punizioni che ti scarnificavano il cuore. Esatto. Vero, dottoressa Trinci? Sicuramente oggi i genitori sono meno implacabili su queste, queste bugie, che poi sono davvero delle bugie che, insomma, bisognerebbe anche lì vedere quanto queste sorelle venivano, no, un po' esaltate rispetto alla bravura e tutto. Quindi, in fondo, questa bugia della nostra ascoltatrice era una bugia cosiddetta per vivere meglio. Sì, però la sorella ci è piaciuta perché non l'ha sbugiardata. Certo, infatti spesso c'è una solidarietà nella patria, no? C'è un po' alla Peanuts, perché anche lì non è che mai si sbugiardano fra di loro, no? Per questo serve avere, credo, più figli, come sicuramente il dottor Pellai ci potrebbe ben indicare, perché in fondo penso che anche le bugie diventano qualcosa che si diluisce all'interno della famiglia. Il vis-à-vis, se c'è un figlio unico, è sicuramente più frequente e anche, io credo, più rischioso, proprio per questo incistamento che si viene a creare. Dottoressa Trinci, a proposito di solidarietà tra adolescenti, per salvare un'amica dalle furie di sua mamma, mia figlia ha finto che venisse a dormire da noi. L'amica invece era a fare un weekend con il suo ragazzo. Quando si è scoperto il misfatto, è scoppiato un pandemonio. Maria da Piacenza. Cosa si fa con una figlia che ha coperto un'amica su una, chiamiamola così, trasgressione, tra virgolette, di questo tipo? Ma io penso che, cioè, penso che tutto sommato queste cose fanno parte della vita. Ecco, io sdrammatizzerei anche un pochino. Certo, i ragazzini vanno richiamati alle loro responsabilità. Io penso che è ben diverso avere il bambino in casa che dice al telefono c'è la giraffa, no? Quella è ovviamente una bugia pre-geppettiana, proprio di pura fantasia. Quindi questo è un conto. La bugia lì dove allora si comincia a pensare che cos'è la responsabilità, che difficoltà ci sono nella vita, che cosa può comportare, vanno aiutati a riflettere, a conoscere l'esistenza. Penso che l'ascoltatore che si è definito padre rigido precedentemente, ecco, io non lo condivido in pieno, però che sicuramente è molto importante il modello che noi diamo ai ragazzi, soprattutto un modello di pensare sulle cose, perché una verità proprio detta in maniera, una grossa verità non esiste, ognuno poi piano piano bisogna che aggiusti se stesso su trovare il suo stile di vita, il suo modo di essere. Quindi sono giovani, sono ragazzetti, e anche noi smettiamo di considerarli più grandi. Oggi i ragazzini di 11-12 anni si fidanzano, ma non siamo anche un po' noi che si insiste su questo modo di essere e di vivere? Condivido perfettamente. Giorgio ci chiama da Verona. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. Pinocchio? Oh, prego? Pinocchio? Si sente più Pinocchio o non Pinocchio lei? No, io penso di essere fuori dal giro di Pinocchio o non Pinocchio. Volevo solo dire la mia riguardo. Secondo me non si può essere tolleranti con le bugie. Un conto sono le bugiette, quelle piccole cose che sono... ma le bugie importanti non si devono dire. Cosa intende lei per bugie importanti? Bugie importanti, l'esempio è quella di quel ragazzino che ha introdotto la trasmissione di oggi, che per coprire un amico ha mentito e ha negato. Sì. E quello è una cosa gravissima, perché questo vuol dire che lui ha perso la fiducia del padre. E quando si dice una bugia grossa, si perde la fiducia. Questo è una cosa... E mi dispiace fra l'altro che ci sia molta tolleranza nei confronti dei bambini, dei ragazzini che dicono le bugie. Insomma, bisogna essere severi anche per il loro interesse. Severi vuol dire severi. Ecco, vorrei capire che cosa lei intende per severi, perché il contributo della dottoressa Trinci di Alberto Pellai, mi scusi, sono rapida, è attenzione alle bugie, cerchiamo di capire perché le raccontano e che cosa si nasconde dietro una bugia. Il suo severo, che cosa vuol dire? Punizione e fine? No, vuol dire far capire la gravità della bugia al ragazzo, o al giovane in genere. perché altrimenti passare un po' sotto gamba il discorso vuol dire rendere, aprire la carriera a un bugiardo, probabilmente. Alberto. Ascoltavo con attenzione Giorgio. Io, proprio ripartendo dal caso che ha dato il là a questa trasmissione, direi che noi abbiamo di fronte un adolescente che, rispetto al valore della legalità, ha messo come prioritario invece il valore dell'amicizia, probabilmente per la fatica di essere accettato, chissà cosa c'è dietro, ma chiaramente non ha saputo mettere il valore prioritario al posto giusto. Per cui, giustamente, come dice Giorgio, qua c'è bisogno di un intervento educativo, qua c'è bisogno di un adulto che sappia vedere cosa c'è dietro alla bugia e in qualche modo quello che poi Giorgio ribadiva, il patto di fiducia tra un adulto e un figlio, viene effettivamente messo in discussione da una trasgressione così grave. E quel patto di fiducia però è proprio il pegno di scambio, cioè l'oggetto che io posso rimettere nel contratto e nella relazione educativa con mio figlio, cioè io posso dire: hai fatto una cosa davvero grave, in qualche modo mi sento un po' deluso perché ho una straordinaria fiducia in te, ora questa fiducia va un po' riconquistata, un po' come la libertà che dai a un adolescente, non gliela dai tutta ad un colpo, e quindi a questo punto dobbiamo recuperare quello che è successo, dobbiamo capire uno come rimediare al danno che è stato fatto e poi due capire in una situazione futura se tu sarai in grado di mettere i valori al giusto posto, cioè prima la legalità e poi l'amicizia. Si potrebbe anche aiutare questo ragazzo a vedere che essere un vero amico può essere anche aiutare un tuo amico che sta per fare un'azione illegale e dirgli: ti puoi fermare perché guarda che se ci beccano questa è una cosa grave. Dottoressa Trinci. Ma dunque, intanto voglio dire, questi ragazzi sono ragazzi da formare, cioè una Bildung, no? da tirar su, insomma, voglio dire, cioè, i genitori si devono assumere le proprie responsabilità rispetto a loro, quindi io condivido pienamente l'intervento di Alberto Pellai. Qui non è che si tratta di mettersi su una posizione ormai mi hai deluso e di strapparsi i capelli, non è un rapporto tra amanti, no? Dove uno può fare questo, è il rapporto con un figlio. La delusione, io credo, non deve essere fatta pesare così tanto poi a un figlio, bisogna provare a condividere queste cose, cioè perché è successo. È sicuramente quello di Luca, mi sembra, come ha detto per lei all'inizio, un casone, cioè proprio una cosa grossa, perché c'è appunto una scala di valori rovesciata, l'amicizia rispetto alla legalità. Però ecco, io cercherei comunque di mantenere le cose circoscritte, se no davvero si va a finire che dilagano, che perdono anche un po' i contorni che devono avere. Ecco, è sicuramente quella di Luca una cosa grave. Il genitore è sicuramente un genitore che starà male, si chiederà anche dov'è che lui ha sbagliato rispetto a questo. E così Luca. Ma io mi faccio anche un'altra domanda. Spesso i ragazzi che vengono in terapia mi dicono: ma io ho detto una bugia perché non potevo non dirla, perché mio padre e mia madre non avrebbero capito. Io credo che questo sia anche davvero un qualcosa che è appartenuto a tutte le generazioni. E su cui secondo me bisogna riflettere. Noi vi salutiamo, ringraziamo la dottoressa Trinci per essere stata con noi, vi diamo appuntamento al prossimo sabato per una nuova sfida educativa, per dirla come Alberto Pellai. Dottoressa Trinci, grazie. Grazie a voi e ricordatevi, come dice Gian Burrasca, che non tutte le bugie sono educative. Grazie dottoressa. Alberto, grazie, buona giornata. A sabato prossimo.